A parte vieni qui a far diventare proletari due come noi. A parte il fatto che andava a fare una bella settimana in cantiere a tutti e due, non vi farebbe manco male. Ah, tu dici. Io ci andrei volentieri. Non l'hai mai fatto. Lui le mani. Ma ce vado io, ma ce vado tu. Non avete mai lavorato in vita vostra, andate a rompere i coglioni a quelli che lavorano. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ma buonasera, buonasera miei piccoli schifosini. Tu parlavi di staccare la spina della la, ma fino a quando c'è vita c'è speranza, carissimo, come cazzo ti chiami? Chi sei tu che deve dire staccate la spina? Ma chi sei? No, il buonista lo stai facendo tu che sei un pazzo di merda, non lui. Tu sei un razzista di merda? Non so come cazzo fanno per prenderti a lavorare. Io sono un autotrasportatore e sono fiero. È meglio di te 100.000 volte, perché tu spari cazzate, ok? E noi facciamo i fatti che lavoriamo. Noi facciamo i fatti. Sono i famosi camionisti della maggioranza silenziosa, vedi? Ma no, ma quale cazzo è maggioranza silenziosa? Ma lo senti questo coglione che dice dalla mattina alla sera, no? Tu sei soltanto un coglione che parla a bambera. Sei un razzista di merda? Sei contro tutte le religioni, secondo me. Cioè, ma se è una religione sbagliata, a te che cazzo ne frega per giudicarla? Parli male dell'Islam, parli male di questo, parli male di quello, ma che cazzo sei te? Fammi capire. È un camionista che sta entrando nella dimensione della maggioranza silenziosa, è giusto, perché usa un linguaggio... Ma tu perché non ti stai zitto? Ma che cazzo sta parlando con te? La vostra radio è una radio di merda che non incarna una. E vaffanculo, va. Cosa sta dicendo quel mostro? Direttore pazzesco! Silenzio la vecchia! Partiamo con un fuori onda, caro Parenzo, forse ne hai sentito parlare, dato che sei lì alla 7, dato che, dobbiamo dire la verità, è l'unica televisione che rimane accesa in questi giorni di ferie. Però l'unica televisione oggi... che fa servizio pubblico, che non ti fa pagare il canone, vabbè, lo dico senza alcun conflitto. Ma che fai? Senza alcun conflitto il portaborse di Cairo? Il portaborse di Cairo, dai, allora, no, fuori però, onda... Però oggettivamente paghi il canone quando guardi la 7? Quello è vero, quello allora, è vero. Non rompere le allora, palle. Staino, il signor Staino, fuori onda all'aria che tira, mi si sta rizzando l'uccello. Ma non vabbè, la sapevi sta cosa? La sapevi o no sta cosa? Ma non sai niente, fondamentale, certo, signor Staino. Certo, però adesso la giornata mi politica sta... di oggi. Non è successo niente. Sì, niente, non ti preoccupare, niente. Nella politica non succede mai un beh, cazzo. Beh, ottima questa notizia dell'Austria, ad esempio, che non metteranno i loro ma sì, cingolati. Ma intanto l'hanno detto. Fusano. Intanto lo hanno detto. Sì, però hanno smentito beh, oggi. Sì, ma intanto l'hanno detto. L'hanno detto. Carro armato alla frontiera. Senti. Loro dovrebbero essere riconoscenti un po' verso l'Europa, che in questo momento chi soprattutto è? Verso l'Italia. Io credo che questo sia... Si stava rizzando l'uccello. Cioè Staino, guardi che l'abbiamo sentita, che sta dicendo. Sono Paolo Endi, non sapevo assai che mi avevate già collegato. Vabbè, lasciamo stare. Ragazzi, allora dovete essere più seri, Vi faccio... Pensa un fuori onda peggiore poteva essere... Sentito? Sì, ho sentito. Certo, è un modo di dire, naturalmente, poteva essere per tante cose, non nel senso sessuale del termine. Bravissimo, Pica anche a coglierne le sfumature, diciamo. Oggi, però, è la giornata. Ovviamente nessuno sa chi è la persona che hai citato, perché tutte le persone che tu citi di solito sono tutte del tuo mondo, la grande massa di persone. Non lo conosce, non lo conosce nessuno. Ma adesso voglio dire, ma chi il tuo merito è? Ma come? Ma il tuo merito è quello di aver fatto conoscere Donato da Varese. Voglio dire, ma vorrei mettere di Donato da Varese con uno che si chiama Pica che conduce. ma che... è ma dai, il numero su, uno ma non lo sa nessuno pick. Per carità, vabbè, tu non lo sai, lo abbraccio fortissimo, ma non sa, la ecco, gente non sa chi è. Bravo, abbraccio, lo abbraccio, per chi carità è. Ma no, ma no, ma è normale che sia così, per carità. Vabbè, usciamo fuori da questo cul-de-sac. Allora, oggi è la giornata in cui Napoli sì. omaggia Maradona. Sì, c'è certo. il conferimento della cittadinanza sì. onoraria. Ora io vorrei, sommessamente, ecco appunto, io vorrei sommessamente, adesso sì. mi sommergeranno di critiche, di cose, vorrei sommessamente invitarvi a vedere, cari amici napoletani, e lo dico proprio a voi, ai napoletani tantissimi che sono in ascolto qui, cittadini di Napoli, gente per bene di Napoli. Allora, andate a vedere un video, state dando la cittadinanza onoraria a uno che ieri, tagliando la torta in un ristorante di Napoli, era ubriaco. Fradicio, che va bene, per carità, dando la cittadinanza onoraria a tutti, ma non è solo questo. Andate a vedere quel video che circola su internet. Maradona, ubriaco fradicio, ieri in un ristorante di Napoli. Ubriaco fradicio, che non sa nemmeno... è una cosa incredibile. Vabbè. Allora, state dando la cittadinanza onoraria a uno che io adoro, un genio assoluto del pallone, è come un pittore, è come Dalì, è come, per carità, assolutamente, però Dalì. Ma sì, certo, nel Dalì, suo campo, come fai sì, a paragonare Maradona campo, a Dalì? Ma nel suo campo sì, certamente, sì, assolutamente, anzi forse di più di Dalì, cioè il top del top. Allora, comunque, la cittadinanza onoraria è un'altra cosa. State facendo diventare cittadino onorario di Napoli uno che ha avuto rapporti con la camorra, uno accertati, quando era giocatore. Cocaina fino al midollo, e vabbè. Vabbè, quello. Vabbè, cittadinanza onoraria, per carità. Amico di Chavez. Ha fatto il tifo per il Venezuela di Chavez in una maniera incredibile. Squalificato per cocaina ai mondiali del 94. Sì, bravo, certo. Tutto questo, ragazzi, di che parliamo? Cioè, questa qua è cittadinanza onoraria a Maradona, che per carità, un genio, Salvador Dalì, però questo è. Questo è stato anche Maradona. Perché poi non come so di se villaggio... ci conviene andare a Napoli nei prossimi no, giorni. No, ma però, non è questo il punto. Ma uno no, lo può dire. Loro sono sensibili, hanno poco. Ma non hanno poco senso ma dell'umorismo. Ma è una verità. Specie di ultras. È una verità inattaccabile. È una verità inattaccabile, è così. No, ma io sono punto. Totalmente per la prima volta d'accordo con te. No, poi dategliela pure, va benissimo, dategliela, mettetegli quello che vuoi, un'operazione. Però sappiate, un'operazione mediatica del sindaco, naturalmente, no? Cioè, Maradona in conferenza stampa sui soldi, perché era girata la voce che prendesse dei soldi, no? Sputo in faccia a chi dice che prende dei soldi. In realtà li prende, ma dagli sponsor, 180.000 pare. Mi piacerebbe avere un mano a mano con quello che ha detto, che io ho preso 230.000 o 450.000 per lo sputo in faccia. Non sono qui per i soldi. A me poi quando uno dice sono napoletano fin dal primo giorno, ma che vuol dire? Sono frasi senza senso. Sono frasi senza senso. Non fatevi fottere da queste cose dell'amore, dell'affetto dal primo giorno. Sono tutte puttanate. Sono puttanate. Se qualcuno ha detto che io sono venuto qua per tanto soldi o per no, io la cittadinanza me l'ho ganato nel campo. L'ho guadagnato sul campo. Anche qui non sembra sobrissimo, come dire, Parenzo, no? No, non sembra nulla. Non sembra in sé. Comunque, vabbè, ragazzi, uno è libero di ubriacarsi, di drogarsi, di fare quello che vuole. Figuriamoci se facciamo noi, no? I censori dei vizi personali. Allora, c'è però un fatto interessante. C'è un sindaco di un posto che si chiama Pimonte, dove una ragazzina è stata stuprata da un branco ed è stata costretta, chiaro? Quindicenne, fidanzata col figlio di un boss locale di 2 anni più grande di lei, è stata prima sottoposta a violenze sessuali da 12 Mamma. Minorenni, tutti quanti tra i 14 e i 17 anni, Mamma. Tranne uno di 13 e qualche mese. Poi è dovuta scappare, violentata, ricattata, se n'è dovuta andare in Germania. Il sindaco di questo paese, un signore che si chiama Michele Palummo, sempre alla 7, dice grandi scoop fanno da quando non ci sei tu alla 7 lì alla Raghettina. Sei bravo, bravissimo. Sei bravo, bella questa che hai detto, molto bene, bravo. Sono andato via e inizio e arrivano le notizie. Bravo, sì. Bravo, mi piace. Signor Palumbo, è ottimo, è ottimo. Senti che ha detto una bambinata. No, adesso parlando di cose veramente serie. Sì, sì. Cioè, no, ha definito questa roba una bambinata. Questo è un criminale che si deve dimettere. Cioè, Palumbo, amico mio, una bambinata. Non è una battuta, questo non è una battuta, questo è un signore che si deve dimettere immediatamente. Cioè, il consiglio comunale si dovrebbe dimettere immediatamente e così si va al voto. Via, non è possibile. Lo vogliamo chiamare e definire. Bambinata, forse. Bambinata. Forse il termine. Un termine. Uno stupro di gruppo. È successo, è un fatto isolato, purtroppo. Non è... Lei l'ha detto che è una bambinata. Ma sono tutti minori. Lo so. Dai minori che cosa si può aspettare? Che violenti in una ragazza? No, nel modo più assoluto, è un successo. Ormai è passato. Cioè, adesso, questo signore qua, che cosa bisogna fare? Ma se uno non si dimette. Quando dice cose di... Ma quando ti dimetti? Cioè non ti dimetti quando sei condannato in primo grado, e vabbè, siamo tutti garantisti. Non ti dimetti se non parli italiano, perché questo è italiano, insomma, siamo... Però va benissimo, per carità, il sindaco di questo paese, Piemonte, non so manco dove cazzo è. Dov'è questo qua? Napoli, Caserta, eccetera, siamo sempre lì. Per carità, può succedere anche a nord, non è quello il problema. Allora, se non ti dimetti quando dici queste cose, ma quando cazzo ti dimetti nella storia, nella vita? Uno dice lo stupro di una ragazza del tuo paese, una bambinata, ma te devi andare a fare in culo, o no? Cioè, oh no, ma ragazzi, ma ditemelo voi o no, oppure sbaglio io. Ditemelo. Poi naturalmente cerca una via d'uscita. Le mie più sentite scuse. Ma quello che conta è quello che hai detto all'inizio, non dopo le scuse. Ma che c'entrano le scuse? Hai detto che era una bambinata? La cosa agghiacciante, tra l'altro, oltre alla bambinata, quello che ha detto dopo è una cosa passata, capito? È una cosa passata. Che vuol dire una cosa passata? Quella è scappata in Germania, violentata, no, da un branco. È una porcheria. E le sue giustificazioni dimostrano che non si è neppure reso conto della cosa grave che ha detto. Intendo, prima di ogni altra cosa, porgere le mie più sentite scuse alla nostra giovane concittadina, alla sua famiglia e all'intera cittadinanza per aver utilizzato durante l'intervista alla 7 un'espressione infelice ma assolutamente impropria e che non era affatto riferita a quanto le è purtroppo capitato. È un'espressione che non rispecchia affatto il mio pensiero. Ma che vuol dire? Ma è incredibile. Come puoi dire che non rispecchia il tuo pensiero? Hai detto, ti hanno chiesto più votato, hanno detto una bambinata. Come fa a definire? No, ma sì, ma io... Cioè, ma di che parliamo? Le scuse di che cosa? Sentite quest'altra cosa. Possiamo dire che era entrato un po' nel pallone? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Cioè, è quasi comico questo signore, capito? Cioè, no, non è comico, rido. È tragico. No, ma io rido naturalmente perché... Sì, no, d'accordo, è chiaro, ma è una cosa tragica. La cittadinanza stessa si dovrebbe ribellare a... Ma mi sa che non è così, come sentirai più tardi. Mi sa che non è così. Purtroppo non è così. Possiamo dire che era entrato un po' nel pallone? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Onde che chiudete, cornuti! La zanzara. Crucia sinalot. Chicken! Un plauso a David Parenzo, che è l'unico in Italia considera gli immigrati per quello che sono, dei pulisci culo e dei spingi sedie a rotelle. Bravo Parenzo, così li vedi tu gli immigrati, bravo, bravo, e puliscono pure il tuo cesso a casa, bravo. Allora, mi scrive un mio amico molto conosciuto che segue sempre la zanzara e lo ringrazio. Maradona ha fatto sognare e regalato un sogno di riscatto alla città, quello conta, ma infatti non stiamo parlando, certo, di quello che ha dato a una città, anche se queste espressioni a me non piacciono, sono espressioni un po' retoriche, che io aborro, come direbbe Mughini. Non è quello il punto, stiamo parlando di un'altra cosa, la cittadinanza onoraria di una città, cioè una patacca ufficiale, di cui non me ne può fregare di meno, però una patacca istituzionale. Bravo, questo ci sarà una differenza tra Totti e non Totti della Liguria, ma tra Totti e Maradona. Totti, il capitano, è stato un grande ed è un grande campione. Non ha avuto i trascorsi. Non ha avuto alcun trascorso, anzi ha soltanto meriti perché sta con la... Vabbè, non è che uno si è fatto di cocaina e deve essere bollato per sempre. No, ma non è per quello, è per... Come cioè, dire, non è ubriaco fradicio di notte. Non è ubriaco fradicio di notte. È una figura in bianco e nero, mentre è a colori Totti, quindi non voglio dire, c'è una differenza tra dare la cittadinanza onoraria al capitano e darla sicuramente a un grande del calcio come Maradona, ma che sicuramente non si è specchiato né per moralità né per etica, insomma sono due cose diverse. Allora, ieri durante la trasmissione che Parenzo conduce sulla 7 è intervenuto un signore che si chiama Bartolo, conosciuto, un medico di Lampedusa. Bravissimo. Molto conosciuto, no, premiato, eccetera. Sì. E ha detto delle cose anche abbastanza incredibili. 200.000 immigrati non è un'invasione. Ora, sì, come cazzo si fa? Io perché io non ho miti, non ho modelli, nemmeno di questo Bartolo, che farà sicuramente bene il suo mestiere, un medico, quello che vuoi. Beh, dovresti, ma come cazzo si fa a dire che 200.000 immigrati non è un'invasione? 200.000 immigrati sono andati è a vedere un Vasco. In teoria è un'invasione. Certo, sono quelli infatti, che sono andati a vedere Vasco. Infatti si diceva e mi pare che Modena e infatti come si dire, diceva... li abbia sopportati, no? No, quindi vabbè, se dai, tu metti questa adesso, cifra questo, su tutta Italia, questo paragone è insopportabile, dai. Ma non è la stessa cosa. A parte che si è parlato di invasione di Modena quando si parlava, ma certo si parlava che si usa, ragazzi, perché ormai vedete invasioni dappertutto. Le armate voi. Com'era? Le armate di Hitler o l'armata rossa? I plotoni da quante persone erano formate? Le divisioni, 100.000, 200.000, certo, quelle le invasioni sono così. È una media città. Senti, Bartolo, italiana, una Bartolo, media piccola fai, città italiana. Posso dire una cosa, caro Bartolo, ognuno deve fare anche il suo mestiere. Bartolo, faccia il mestiere di medico. Lo fa. Non faccia il politico. Lo fa. Non lo faccia fa. Il politico. Nel, lo fa. Non faccia nel il politico. Totale non della faccia politica. Il politico. Non lo faccia il non politico. Fa il politico. Sì, fa il politico. Medico. Fa il politico. Salva ogni giorno delle vite. Chi da se ne frega, va bene, lo faccia. Non faccia il politico. Sanitario di umanità. Ma non faccia il politico. Quel piccolo avamposto sanitario di umanità. Non faccia il politico. Voi dovete baciare. Quando dite la parola Bartolo, dovreste baciare per terra quando dite la parola Bartolo. Delle perché scelte l'Italia se ne è Bartolo. Gli altri. Delle non scelte... sono quei quattro imbecilli che telefonano parlando sei di invasione. Vergognoso, non sei. C'è sei nessuna vergognoso. Invasione. C'è l'invasione del virus nei vostri cervelli. C'è lì c'è un'invasione. Bartolo, c'è un'invasione sentiamo, di populismo sentiamo, nei vostri cervelli. Sentiamo. Vergogna. No, ma parliamoci chiaro, stanno dicendo tante di quelle bugie anche che sono facilmente smentibili. Dove sta questa invasione? Stanno parlando tutti di una grande invasione. Dov'è l'invasione? 43 persone che attraversano il confine dell'Austria? Questa è l'invasione? Oppure è invasione 180.000 persone, ma anche 200.000? Io veramente mi stupisco e sono sempre più convinto che le persone devono fare il loro mestiere. E lo fa. Cioè il loro mestiere è quello di fare il medico. È quello di e fare... lo fa molto bene. È benissimo, facesse il medico. Salvando delle vite. Quando sai, tu di... chiedigli, ma chi sai in quali ma... condizioni ma arrivano di... i cercatori di felicità? Guarda. I cercatori di felicità, sai in che condizioni sbarcano sull'isola di Lampedusa e trovano questo dottore ma quasi che da solo? Ma quello va con bene. 10, 15, ma chi 20 ha detto che non lo deve fare? Uomini e donne che passano ma la giornata c'entra? Sulle coste a pattugliare da uomini di pace quell'isola ad accogliere queste ma anime che c'entra? Arrivano e sbarcano. Ma non ti vergogni di quello che ha detto anche ieri sera, che ha detto sugli immigrati è peggio di un olocausto? Certo, ah, qui non ti vergogni dell'affiancamento dell'olocausto alla vicenda degli immigrati? È un modo di dire, ecco, nel senso appunto, che no, quel mare si è, quel mare è si è trasformato in è un una immenso, puttanata retorica in un'immenso prigionia che, ecco, in un'immensa trappola di morte. Non lo dice l'olocausto. No, io la chiamo trappola di morte, ma insomma capisco il medico, il dottore. Se uno blocca tutto e non li fa, se uno dice qui non arrivate, tutto. Non parte più nessuno. Non parte più nessuno. Non esistono i migranti di felicità. Blocco intestinale, quello che ti è venuto. Gente portata dai trafficanti. Che finalmente gente portata dai trafficanti. Intestinale che ti deve venire, bloccare tutto. Ma cosa no, blocchi? Quello mi è passato per fortuna. Mi è passato. No, ma quello ti deve, infatti, deve venire quello. Il blocco intestinale ti deve venire a te. L'unico blocco che ti deve venire. E dico pure che è peggio dell'olocausto, perché fra 20 anni, quando ci diranno voi siete responsabili di quello che è successo, non avremo neanche l'alibi di dire noi non sapevamo, perché da 26 anni che sappiamo quello che succede nel nostro Mediterraneo, lo sa tutta l'Europa. Allora, io non avevo sentito bene questa cosa, ma il tuo caro amico Bartolo, che io rispetto per il lavoro che fa, si dovrebbe vergognare di queste cose qua. Si dovrebbe vergognare, perché affiancare l'olocausto dei nazisti, che hanno sterminato, e ti dovresti incazzare pure tu, 6 milioni di ebrei. Dunque, scientificamente, la morte degli immigrati nel Mediterraneo è una vergogna di cui si dovrebbe pentire. Tu ti dovresti incazzare con lui. Vedere l'Europa, ti dovresti incazzare con Bartolomeo. Ti dovresti incazzare. Vedere i leader europei che si voltano dall'altra parte, che anziché predisporre i cosiddetti corridoi umanitari. L'ho sentita bene questa cosa. Ma che corridoi umanitari? Per salvare qui delle ci vogliono vite. Le navi militari, come fanno gente seri, i paesi seri utilizzano le navi militari per bloccare tutto, per arrestare i trafficanti. Altro che cazzi, dai. Ci sono scaldato troppo, siamo ancora all'inizio. Chi è che vuole parlare di Donnarumma? Chi è questo qua di Donnarumma? Vabbè, vediamo che ha da dire. Claudio da Roma, avanti. Claudio. Sì, eccolo qua. Dimmi. Cose serie. No, vai. Io Donnarumma, volevo capire com'è possibile in Italia ci sia una categoria che è la maggioranza, che non è né silenziosa. No, ma dimmi su Donnarumma, che volevi dire? È maggioranza invidiosa. Sì, bravo, ragazzo, bravo. Ha 18 anni, ha un contratto. Ha fatto benissimo, anche se se ne va, perché lui il lavoro ce l'ha, non come quei coglioni che stanno fino a 30 anni a casa dai genitori e non fanno un cazzo. No, hai perfettamente ragione, perché nei confronti di Donnarumma, ho letto anche l'articolo di Gramellini questa mattina sul Corriere della Sera, si è scatenata un'orgia di cazzate. Qualcuno scrive, come per esempio Gramellini, farà parte della cerchia dei ricchi ignoranti. Ma chi sei per dire una cosa del genere? Che vuol dire ricchi ignoranti? A parte che l'ignoranza non si misura con il pezzo di carta. Cioè non è che l'ignoranza si misura col fatto che prendi la maturità o meno. E poi chi se ne frega se è ignorante o no. Quello deve saper parare. Deve saper fare il suo mestiere. E uno poi può scegliere di non fare la maturità? Cioè, oppure è un obbligo. Può scegliere di non fare la maturità? Può scegliere di andarsene in Ibiza con l'aereo privato senza fare la maturità? Oppure lo dovete attaccare perché è ignorante, non è rispettoso? Ma chi se ne frega? Uno sceglie se fare la maturità o andare in Ibiza. Siccome guadagnerà 5 milioni di euro l'anno, se ne fotte di fare la maturità. In barba a tutti questi benpensanti, perbenisti che dicono no, dovrebbe prendere la maturità perché è un'offesa. Ma offesa a cosa? Ma voi la parola libertà non la conoscete. Poi ignoranza che cosa vuol dire? Perché la sapienza o il saper qualcosa è legato a un pezzo di carta, alla maturità o alla laurea? Lo dico io che sono laureato e Parenzo non lo è, tra l'altro. A dopo, dai. La Zanzara. Niente, volevo dirti solo una cosa, per tutti coloro che chiamano Parenzo, c'è un nuovo modo di chiamarlo, mantecato di merda. Riparte da 76 metri, la Cervelloni Mazzanti viene dal mare. Vadi, vadi contessa, taglio in nome di Dio. Pignolo netto dell'arcivescovo con anello pastorale. Porcaccia di quello. E già Parenzo, che t'hanno vista a Napoli, fu bravio. Ciao Cruciani, io sono Filippo, l'ex segretario personale di David Parenzo. Considera che tra il 2014 e il 2016 mi occupavo personalmente di organizzare tutti gli appuntamenti, quindi cene al ristorante, spa, bed and breakfast, chi più ne ha più ne metta, tra appunto il mio ex datore di lavoro David e Anna, la napoletana, questa distinta signora mora, non troppo alta, di Napoli. Quindi è tutto vero. Ma io dico, si può? Ma io mi appello a tutto il collegio di difesa, ma che cazzo è? Aspetta. Per la mia amica di Napoli, sino strunz. Parenzo, ma perché non chiami più la mia amica di Napoli, sino strunz? Allora, ragazzi, qui arrivano ogni giorno. Ma guarda, sai che conferme. Sei veramente, no, ma è così una la persona realtà pericolosa. Questa è la classe, cioè tu hai detto, no, ma la realtà, ma scusa, non ho capito. E ma hai creato una mega bolla su una cosa inesistente. Sei un pazzo scatenato. Ma non c'è nessuna bolla, è la gente che sta identificando. Ma hai detto sta entrando nei dettagli. Vabbè, di una storia che io conoscevo. Ma il segretario personale, ma non ho mai avuto un segretario. Vabbè, personale adesso si qualifichi, verrà querelato. C'è tutto il mio ufficio legale, ma con a capo legale gli avvocati Bevere, che sono già pronti a sporgere una denunzia per diffamazione aggravata nei confronti di tutti questi. Sì, no, sì, tu, certo. Nei miei confronti addirittura mi vuoi querelare. Anche nei tuoi confronti ti voglio portare in tribunale in tutti i fori italiani, però non solo in uno. è che non si può fare. Ma bisognerebbe esercitare nei tuoi confronti un'azione penale, ripeto, congiunta, arrivano in tutte le procure d'Italia. Arrivano chi? Conferme, ma chiunque su può conferme. Telefonare e dire, ma no, chi? Ma tu ti rendi gente conto? Gente che dà punti di riferimento, nomi e cognomi, indirizzi, numeri di telefono. Senti quest'altro. Ma senti questo, senti questo. Sei un personaggio pericoloso, tu sai. Ah, ecco allora, non mi sbagliavo quando ti ho visto a Via Cilea, David. Ho detto, ma questo non mi è nome, mi ricorda qualcuno. Piccolino, sai, con quei riccioletti che si andava bello tomo, e tutti lo seguivano, e lui che pontificava e passeggiavate per Via Cilea. Ho detto, ma questo mi siete, forse è David Pai, ma non è possibile a Napoli, che caspita ci fa. E invece adesso ho capito. Birbantello. Con i riccioli, poi ma chi è? Allora, la notizia è questa: David Parenzo ha avuto per un periodo, almeno così mi avevi riferito tu una volta, un amante a Napoli. Ma non ci sarebbe nulla di strano. Ma sei un diffamatore di professione. E arrivano conferme, come ovvio, come ovvio. Ma uno scherzo, questo è quello coglione, che mi dicesti dai. Tu. Poi se la gente conferma, ti ho visto a Via Cilea, la ci crede, l'amica poi, mia, sciocco. L'amica mia non la chiami più. Ma che ci crede? L'amica mia non la chiami più. Una che ha detto, la mia amica non la chiami più. Scusa. Ma non sono mai andato a Napoli, non so neanche chi sia, è tutto inventato. No. Ma una picchiata colossale. Non dico niente, non è affatto questo, io mi ricordo. Poi no. Allora, manuale di manuale di convivenza tra uomo e donna. Riguarda, ti capisci come nascono le puttanate? Stai che tranquillo, vabbè, che abbiamo scherzi, detto, come... lascia bene, lascia nell'etere. Hai diffamato, ma non c'è nessuna diffamazione. Capito? Allora, a proposito di convivenze, amanti, dai, persone che stanno insieme, che... eccetera, da un libro molto conosciuto che si chiama Purity. Sì. Manuale giusto di convivenza tra uomo e donna. Senti, ecco, senti. Giusto questo puoi leggere. Imparai a sentire ciò che lei sentiva. Lei imparò a prevedere i miei pensieri. E cos'è più intenso di un amore senza segreti? Due parole sul gabinetto, mi disse un giorno durante i primi tempi. Alzo sempre la tavoletta, risposi. È questo il problema, dice lei. Credevo che il problema fossero quelli che pensano di poter centrare la tazza con la tavoletta abbassata. Per fortuna non sei uno di quelli, dice lei. Ma c'è uno schizzo. Pulisco anche il bordo. Non sempre. Ok, c'è un margine di miglioramento. Ma non è solo sul bordo. È sul sotto del bordo e sulle piastrelle. Goccioline. Vabbè, pulirò anche lì, dai. Non puoi pulire il bagno tutte le volte. E non mi piace l'odore di urina vecchia. Ma sono un maschio, cosa dovrei fare? Sederti? Suggerì timidamente. Sapevo che non era giusto, non poteva essere giusto, ma lei si sentì offesa dal mio silenzio e diventò silenziosa a sua volta, in un modo più angoscioso, con un'espressione gelida negli occhi, e per me la sua offesa vinceva, pensa che coglione, sul fatto di essere nel giusto. Le dissi che sarei stato più attento o avrei cominciato a sedermi, ma lei si accorse che ero risentito, che mi sottomettevo con riluttanze. Non poteva esserci pace nella nostra unione, a meno che non fossimo realmente d'accordo su tutto. Cominciò a piangere. Io devo sedermi, disse infine. Perché tu no? Non posso non vedere i tuoi schizzi. Ogni volta che li vedo penso a com'è ingiusto essere donna. Ma sono gli schizzi di urina. Dottore, trasmissione anticipata, parte prima alla 7, dottore, quando parla di schizzi. Parte la 7 prima, alle 7 e mezza. Tu non ti rendi conto di quanto sia ingiusto, non hai più la più pallida idea, dice sempre lei. Il pianto diventò torrenziale, il solo modo che avevo per farla smettere era trasformarmi di punto in bianco in una persona che considerava altrettanto ingiusto il fatto di poter pisciare in piedi. Apportai questa rettifica alla mia personalità e centinaia di altre simili nei primi mesi della nostra relazione. Pensa che coglione, dico io. E da quel momento pisciai seduto ogni volta che Annabel, così si chiama questa, poteva sentirmi. Questa è la parte più bella. Quando non mi sentiva, però, le pisciavo nel lavandino. E tole. La parte di me, senti questo. E questa è pura filosofia stupenda. La parte dottore di me. Dottore, la chiamano dallo studio televisivo, dottore. Aspetta, Adale, la... veloce, dottore. Adale in studio televisivo, veloce, che parte la 7. La parte di me che si comportava così era quella che alla fine ci rovinò come coppia e mi salvò come individuo. Ma non è stupenda questa cosa qua? La parte di me che si comportava così, cioè sottomessa, era quella che alla fine ci rovinò come coppia e mi salvò come individuo. Qualche volta bisogna rovinare la coppia e salvarsi come individuo. Sergio da Napoli, vai. Riguardo alla cittadinanza di Diego, semplicemente sì, dimmi. Napoli ha voluto, vedetela così, secondo me, ha voluto sì. Dare un segnale al più grande calciatore di tutti i tempi. Prima riflessione, seconda riflessione. Ma che vuol dire Napoli un segnale? È una cosa del comune di Napoli, una mossa. È la propaganda del sindaco. La propaganda è propaganda del sindaco. Vi fate prendere per il culo dal sindaco. Aspetta, seconda riflessione. Prova a vedere un video su YouTube di Argentina e Inghilterra con la telecronaca. No, Argentina e Inghilterra fu un furto. Fu un furto, punto e basta. Dai. Argentina e Inghilterra fu un furto. Un furto. Il secondo gol è una cosa straordinaria. È una cosa straordinaria. Che c'entra? Terza riflessione, do ragione a Parenzo. Su che cosa? Su che cosa? Sul fatto che c'è la differenza fra Totti e Maradona. Ma che c'entra? Maradona ha vinto il mondiale, è stato molto più grande come giocatore. Che c'entra? Dimmi, caro. Parenzo, c'hai ragione. C'è una grande differenza fra Diego e Maradona. Qual è? Ciao a tutti, arrivederci. Ma no, ma hai ragione tu, Sergio, su quello non c'è dubbio. Parenzo non sa niente. Parla. Ma Parenzo non sa niente di calcio. Parenzo la metteva sul piano morale. Certo, sul piano dei campioni e sul piano morale c'è la differenza a dare la cittadinanza onoraria a un capitano come Totti e a darla a un signore che è stato sicuramente un campione, ma che dal punto di vista morale non so se meriti la cittadinanza. Stai guardando la cosa da un punto di vista. Ma dal suo punto di vista. Ma certo, dal suo punto di vista. Sergio, io rispetto il tuo, tu rispetta quello degli altri, però, Sergio, assolutamente. Assolutamente, noi ce la godiamo. Ma sì, ma godetevi ancora. Se uno gode per la cittadinanza, se tu vuoi godere per la cittadinanza onoraria a Maradona, fai bene. Allora, la cittadinanza onoraria a Maradona. Godi. Non sto godendo per la cittadinanza onoraria. E qui di quello parliamo, è giusto che tu godi di Maradona, perché solo con Maradona il Napoli ha vinto, giustamente è stato il periodo d'oro, tu devi godere per questo, hai ragione a godere. Sto cercando di farvi vedere la cosa da un punto di vista. Ma certo, Sergio, un segnale, lasciamo stare il come. Ma vai in piazza tu stasera? Vai in piazza? Non vado in piazza. No, non ci vado in piazza. Grazie Sergio, Ciro da Napoli, sempre da Napoli, Ciro, vai. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Io sono di Napoli, parlo da partenopeo innamorato della sua città della sua squadra. Ma oggi a Napoli bisognerebbe parlare di questo sindaco di Piemonte vergognoso, che si dovrebbe dimettere domani mattina, anzi subito, ieri si doveva dimettere, che ha detto che è una bambinata lo stupro a una ragazzina di 15 anni da parte di un branco di minorenni. Cruciani, sono indignato da partenopeo, sono indignato, mi vergogno e voglio che lo faccia tutta l'Italia. Io da partenopeo mi vergogno della cittadinanza onoraria a Maradona. Perché? E mi vergogno. Perché? Di quel sindaco. Mi vergogno perché noi qui tutti a Napoli lo conosciamo bene il signor Maradona, fermo restando il grande campione. La vergogna delle figlie delle ragazzine all'Hotel Paradiso, la vergogna della foto con il Giuliano nella vasca fatta a conchiglia, sappiamo bene quello che ha combinato. E mi vergogno che in un'operazione commerciale lui venga a ritirare la cittadinanza onoraria. Ma diamola ubriaco, ubriaco, fradicio, ubriaco, ubriaco ieri sera. Ubriaco, però quello, ognuno fa il cazzo che vuole. E non so se era cocaina. Nelle ultime ore ha anche importunato delle ragazze via Mosca. Vabbè, quello sono accuse tutte da verificare. Questo è un altro discorso. Quelle sono accuse da verificare, sono d'accordo. Però io, se fermo resto, io sono indignato e credimi. Ma tu per chi fai il tifo? Per chi fai il tifo? Per il Napoli. Io ho detto perdutamente innamorato, ma è una cosa diversa. Sì, ma sono d'accordo con te. Sono d'accordo con te, assolutamente. La cittadinanza onoraria. Tu sei parenziano da questo punto di vista. Sei molto parenziano o no? Non ho capito, scusa. No, sei molto parenziano. Parenzo dice, dal punto di vista morale, non si dà la cittadinanza onoraria a uno che ha una certa... Sfondo una porta aperta con me, guarda, credimi, sono assolutamente parenziano. Ciao, ciao, è Ciro, ciao, fermo là, fermo, fermo, ciao. Ci sono in tanti, sono in tanti. Lasciativo, Parenzo, e alla defecarsi non ci penso. Che pisciata. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Nilox.com, dove la tecnologia diventa sport. La Zanzara. Naturalmente. Io fa sta male, sento dalla voce che sta male. Ma se i migranti sono cercatori di felicità, le prostitute sono donatrici di felicità? Cruciani, sono sulla SS che porta a Caltagirone in Sicilia, ci sono puttane sotto gli ombrelloni a 40 gradi, mettiamole nei bordelli, salviamole. Parenzo, ma ti rendi conto che la pensi come la Boldrini su tutto? Cioè, ma fai cagare! Cioè, sei arrivato, ti sei ridotto a pensarla come la Boldrini su tutto. Ho capito che devi lavorare, però, dai. Zanzarosi, contattateci all'800240024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Allora, cari amici della Zanzara, caro Parenzo, io non so quale potrebbe essere la vostra reazione di fronte a quello che fra poco vi faccio ascoltare. Già Grillo si è incazzato come una bestia chiedendo chiarimenti sul suo blog. È una frase detta da uno dei tuoi idoli, caro Parenzo, che si chiama Emma Bonino, la signora, sì, Emma Bonino, uno Bonino, dei tuoi idoli assoluti. Tu hai, sì, dei, certo, miti, dei personaggi che hai un'idolatria per certi personaggi. Ma personaggi che hanno le mani pulite, che ma sono, che stati vuol dire? Non vuol dire niente. Grandi, io grandi pensatori. Senti, e persone che hanno davvero cambiato la realtà delle cose. Dovessi raccontare io delle cose della Bonino, dei rapporti con Pannella, guarda, verrebbe giù qualsiasi cosa, ma lasciamo perdere, un dai. Uomo, un lasciamo uomo perdere. Di una rettitudine, ma di che una c'entra dei rapporti con Pannella della Bonino? Sedersi sempre dalla parte del torto, perché la parte della parte della ragione, i posti erano occupati, fare le battaglie per gli ultimi, quelle vere. Ma non c'entra niente adesso. Ultimi, adesso non c'entra nulla. Adesso non c'entra nulla. Allora, senti la Bonino sulla, sui, ma è ottimo, la Bonino sugli è immigrati. Ottima, apreci, senti cosa sugli immigrati, dice: siamo stati noi a volerli. Sì. In Italia siamo stati noi a dire che dovevano sbarcare in Italia. Sì, per salvarli, mi pare un'ottima cosa, così clamorosa. Bisogna che ci diciamo che bisogna tentare di cambiare, ma il fatto che nel 2014 e 2016 abbiamo chiesto che il coordinatore fosse a Roma, alla Guardia Costiera, e che gli sbarchi avvenissero tutti quanti in Italia, l'abbiamo chiesto noi. L'accordo l'abbiamo fatto noi, violando peraltro Dublino, ma quello sarà un altro discorso. Siamo stati noi a chiedere che sbarcassero tutti in Italia. Ottimo, vergogna, mi pare un titolo di, vergogna, un titolo di merito, vergogna, detto da vergogna. L'ex ministro degli esteri. Allora, c'è una notizia incredibile di una oggi. Una grande operazione verità. No, c'è un'altra notizia Bonino di andrebbe oggi. Ringraziata. Ma chi andrebbe ringraziata? Andrebbe ma chi te l'ha ringraziata detto? Per chi? Il lavoro che ha fatto. Per la lungimiranza. Ma lo sai che sei una noia, lo sai che sei veramente una noia. Cioè, sei il portavoce, il portavoce di alcune persone. Cioè, tu non guardi al di là. Non porto la voce di nessuno perché nessuno ha bisogno di che io gli porti la voce. C'è una. Pare questa mattina. Trovo questi politici controcorrente. Perché a differenza di te. Sì, a differenza di te che accarezzi il gatto, il pelo del gatto per il verso giusto, alle volte bisogna dire e fare delle cose impopolari ma giuste. Andrebbe ringraziato Zuccaro, altro che. Altro che tutte le sue teorie, tutto quello che ha detto si sta realizzando, si sta dipanando di fronte ai nostri occhi, si sta dipanando. Siete il trionfo del politicamente corretto, voi siete il trionfo del politicamente corretto. Voi allora, siete questa mattina si era diffusa la notizia che una famiglia rom, devo dire che era strepitosa, una famiglia rom aveva occupato la villa di la famosa villa di vacanze di Formigoni a Porto Cervo, sì, però pare che la famiglia non sia una famiglia rom. Ecco, e non è la casa di Formigoni, no, era la casa vacanza di Formigoni, no, pare sia una bufala. Questi qua, sì, anche perché i rom lì in Sardegna non si sono visti. Sì, tanto. Pare sia una bufala. Comunque, non è, no, la cosa è successa veramente. Ma non è una famiglia rom, una famiglia originale. Almeno sembra, una famiglia forse di origine slava di un piccolo paese lì. E forse c'è sotto un traffico di affitti finti, di affitti in nero. La cosa straordinaria è che comunque hanno detto ai carabinieri: anche noi abbiamo diritto alle ferie. Quello era stupendo. Questo non è famiglia rom, diciamo, mettiamo che sia vera, è strepitosa. Famiglia rom occupa villa vacanze Formigoni a Porto Cervo. Molto bene, occupare immediatamente le ville in Sardegna, un'ottima idea. Dei padroni lanciato, della Confindustria. Della... Sì, è un'ottima idea. Lanciamo un appello con l'arrivo dell'estate calda a tutte le compagne e i compagni, ai senza tetto, recarsi immediatamente in Sardegna e occupare mano militari le case dei ricchi. Meraviglioso. No, le case dei padroni della Confindustria, dovresti dire, dovrebbero essere tutte occupate. Tutte occupate, o no, caro Capanno? Non sbaglio, tutte naturalmente abbiamo l'elenco di tutti i possidenti della Confindustria, iscritti e non, anche le persone vicine. Forniremo nei prossimi giorni nomi e cognomi di padroni e padroncini che hanno le loro belle ville in Sardegna. Anche le barche possono essere ottimo strumento di occupazione simbolica per far passare due mesi sinceri, liberi di vacanza nella ottima Sardegna. La Sardegna deve essere di tutti, lo vogliamo dire forte e chiaro. Non è che in Sardegna va soltanto Gilletti, tanto per dire una persona. Non è possibile che sia adesso, così. Adesso è stato cacciato, per cui no, è stato cacciato anche col suo contributo, Capanna, no? Naturalmente, abbiamo finalmente il servizio pubblico ha esercitato quella che si chiama opzione di servizio pubblico. Chiederanno a me di condurre la domenica un programma naturalmente di qualche ora in cui spiegherò i benefici del vitalizio. Finalmente si rimettono a posto le cose. Allora, cazzo, mi hai fatto perdere. Mi hai fatto perdere il filo con sto cazzo di. Ah, Mandarà. Signor Mandarà. Tu dici perché ti cito Mandarà alle 19:41 con tutto quello che succede nel mondo? Perché è incredibile. Le nuove performance di Salvo Mandarà, la Maggioni, una criminale internazionale. Senti. E beh, vedete, io mi sento di essere assolutamente solidale sia con la povera signora Monica Maggioni, criminale internazionale che partecipa a riunioni quali Bilderberg, commissione trilaterale, per confezionare la paccottiglia di informazione che voi pagate con il vostro consenso, quindi di che cosa vi lamentate? Però io offro veramente la mia massima solidarietà, perché è chiaro che Fabio Fazio è uno dei giornalisti zerbini, servi del potere, più affermati in Italia. La Maggioni, criminale internazionale, Fazio, zerbino del potere. Senti come delira poi Verbo, no, criminale. Io guarda, tu sei un criminale, cioè non capisco perché ti permettono ancora la Confindustria di trasmettere questa. No, ma senti questa roba, senti. Lo dico contro il mio interesse, no, ma senti questa roba chiusa. Qua, noi dovremmo ma questo va preso pagati. Per il culo, ma va preso per il culo questo, sì, qua, lo stiamo prendendo per il culo. Lo stiamo pigliando riccamente per il culo. Ma è un personaggio ripugnante. Aspetta. È vergognoso. No, No, ma senti, ti prego. Giovanni Benincasa che dice la stessa cosa. No, Giovanni Benincasa è d'accordo con la perculata. Giovanni, sei d'accordo nel perculare? No, non è d'accordo con la perculata. Aspetta che te lo passo. Chiamalo. Eccolo, è qui, Giovanni, Giovanni. Giovanni. Giuseppe. Sei d'accordo nel perculare questo personaggio? Sei d'accordo? Ma io sono appena entrato, non so niente, non so nemmeno. Ma questo è un coglione, ti ha attribuito. Allora, senti questo coglione che dice il verbo criminale della Rai di Mediaset della 7. Salvo Mandarà, ti prego, uno dei nostri, come dire, mostri, dei mostri. Aspetta, senti. Poi andate in rete a lamentarvi di quello che dicono e date ancora vita, perché date attenzione, diffondete il verbo marcio, velenoso, criminale della televisione di Stato, ma questo vale anche per Mediaset, vale per la 7, vale per tutte le grandi TV mainstream. Il verbo criminale di Rai, Mediaset e la 7. Non è da prendere per il culo questo qua o no? Spiegamelo ma tu. Io ci andrei a cena stasera, dove lo trovo? Ma andiamoci a cena, sei un genio. Ma certo, ma molto meglio andarci a cena con questo qua piuttosto che andare a cena, che ne so, con Zagrebeschi o con addirittura Bersani o con gli ospiti della trasmissione che tu curi, peraltro. Cioè, giusto, o no? No, appunto, dico, no? Ciao Giovanni, ciao. Ciao Giuseppe, ciao. Sei di nuovo in postazione? Ma sì, certo. Ma allora, Marzia da Roma, ti prego. Marzia andare da Roma. A cena con questo Marco. Ma certo, Marzia da Roma. Sì, buonasera, dottor Cusani. Dimmi, che dottore, vai, no? Che me ne frega di dottore. Buonasera, dai. Cara, buonasera. No, ma perché cerco di tenermi calma, perché adesso mi parte l'embolo per il sindaco di Piemonte. Il sindaco di Piemonte. Sì, è un mafioso. Non è vero quello. Beh, un mafioso, che dice, adesso parente. È una parola grossa, un mafioso. No, è uno che ha detto una cazzata, un mafioso è un altro discorso, dai. No, perché una persona, siccome lei ha detto, e io non ho motivo di non crederle, che questo qui, che è il ragazzino che ha fatto stuprare la ragazza da quegli altri amici, è il figlio di un boss locale, sì. Ah, non posso credere. Che lei dice che le parole del sindaco hanno un legame con questa vicenda, esatto, siccome quello sì. coinvolto è il figlio di un boss locale. Non lo so, sì, questo sì. Francamente non lo so. Sì, secondo me sì, perché allora l'intervistatore, perché mi ha detto, allora adesso che lei si scusa, come lo definisce uno stupro di gruppo? Perché non gli dicono? Ma lei dice queste affermazioni. Però, che hanno Marzia, abbandinata. Adesso, al di là di questo, la cosa fondamentale è perché non si è dimesso ieri, l'altro ieri, certo. Questo tizio qua. Ma certo. Cosa deve fare uno per dimettersi? Ma perché non ha una coscienza, è un poveraccio, è un pezzente. Come sono pezzenti tutti i cittadini che stanno lì e nessuno ha telefonato alla Zanzara? No, perché vabbè, adesso questo per dire io mi vergogno del mio sindaco. Ma ho capito, bravo, ma adesso bisogna verificare tutto in quella zona e vedremo successivamente la trasmissione lunga queste persone. Ma in cosa vuoi verificare? Questo qui si deve... I consiglieri comunali si devono dimettere immediatamente e far decadere illico atque immediato il sindaco. Questo è io lo indagherei. No, potrebbe essere indagato per concorso esterno in stupro. Bah, non esiste concorso esterno in stupro. Indagato per coglionaggine. Io posso credere che lui... Va bene, ciao. Ciao Marzia, Walter, provincia di Torino, dai. Ciao Marzia, Walter, vai. Sì, ciao. Dimmi, ciao. Dimmi. Volevo solo dire che condivido pienamente quello che hai detto su Maradona. Sì. Io volevo aggiungere solo una cosina. Sì. Che un sindaco, come dei magistri, che si proclama come ex magistrato, sì, che si proclama sì. come difensore del bene, cioè, non può fare un'azione di quel genere per che cosa? Per un po' di pubblicità, un po' di, non so. Io non condivido per niente. Vorrei solo aggiungere che ho fatto 23 anni di politica attiva io con la Lega Nord. Sì. Non toccatemi la Bonino perché è una delle... Ma che c'entra? Ha detto secondo me... No, ma tra l'altro non ha detto niente di no, particolare. Ha semplicemente confessato una cosa, che il governo italiano ha scientificamente deciso in quegli anni che dice lei di prendere tutti i migranti. Punto e basta. Ma basta. Solo questo. Non è che ha detto un'altra cosa. Lei è a favore dell'accoglienza? Va benissimo. Bonino, fino adesso l'accoglienza Bonino, è stata indiscriminata. Ma chi se ne frega? Ma non mi interessa a me queste cose. Ma cosa vuol dire accoglienza indiscriminata? Ma che vuol dire? Tu accogli, è stata gestita in maniera indiscriminata, punto. Ciao Walter, ciao. Ma lo vogliamo chiamare questo sindaco o no? Lo vogliamo chiamare o no? Com'è che si chiama questo criminale qui? Michele Palumbo, signor Michele Palumbo. Criminale ovviamente per le parole che ha detto, perché sennò sai, ecco, la gente è facile alle querele. Esatto. Pronto? Oh, eccoci qua, Palumbo. Sì, ma io sto guidando, sì, ma... devo chiamare più tardi. Due secondi, Palumbo, due secondi, non si preoccupi. Senta, allora si è pentito di quello che ha detto? Ma di che cosa state parlando? Della bambinata. E quale... voi parlate dell'intervista durante la 7? Eh sì, certo. Eh sì, ma quella è stata una espressione infelice e impropria. E che non era affatto riferita a quando è purtroppo capitata che voi andate a collegare con lo stupro, si è ben chiaro. Beh, come no? Era collegata a quello che è successo alla ragazza. Era stupro, allora fate pubblicare tutto praticamente il testo che è stato fatto in intervista e vedete se era collegata. Scusa, a che cosa era collegata la parola bambinata? Allora? Non lo so praticamente, che voi mi dite che era collegata, allora fatelo pure. Scusate. No, scusi, ma allora lei perché ha chiesto scusa? Non rispecchia il mio pensiero, quello che ho detto. Lei ha riferito, ha parlato di bambinata con il riferimento a quello che è successo a quella ragazza. Adesso sto guidando. No, ma per capire, è così o no? Sentiamoci, allora vogliamo più tardi, la posso chiamare? No, aspetti, Palumbo, perché non si dimette? Palumbo, perché non si dimette? Perché è un'espressione che non rispecchia il mio pensiero. Ma lei l'ha detta, perché lei... Ma sto dicendo così, lo ripeto ancora una volta, non rispecchia il mio pensiero. Ma l'ha detto lei? Condanna, per principio praticamente, come l'ho fatto io, l'ho condannato l'anno scorso quando è successo l'episodio, l'ho condannato adesso, ho sempre condannato ogni forma di violenza. Sì, d'accordo. Ma perché no? Ma state con chi state parlando? Palumbo, lei l'ha detto, perché non si dimette? Sto dicendo così. Ma perché non si dimette? Adesso sto guidando. Ma perché non si dimette? Io ho detto così, adesso sto guidando. Ma perché non si dimette? Fra un paio d'ore, va bene, fra un paio d'ore. No, un paio d'ore è troppo tardi, perché non si dimette? L'ho detto, che devo dire? Non posso parlare. Ma perché non si dimette? Non va bene. Perché non si dimette? Perché non si dimette? Palumbo! Pronto? Sindaco? Deve pazientare ancora qualche minuto per cortesia, è ancora impegnato con altri giornalisti. Un attimo, due secondi. Ce lo può passare un attimo? ho detto, impegnato un altro giornalisti da qui sì, a no, comune, scusi, sono, no, lo capisco professore, sono Parenzo. Sono Parenzo, buonasera. Sì, no, siccome abbiamo chiamato prima, ci ha detto capito, di chiamare. Signor portavoce, sono Parenzo, volevo dire questo, sono Parenzo, buonasera intanto. Sì, mi dico. Ma le intenzioni, sì, ecco, lei è portavoce? No, assolutamente no, sono un collaboratore. Ma ci può spiegare se ha la possibilità, se ha intenzione di dimettersi, sì, così come notizia? Assolutamente no, ma è fuori di discussione. Cioè, fuori discussione comunque, è fuori discussione. No, assolutamente. Beh, è grave no, quello che ha detto, è molto grave. Cioè. Ma assolutamente è stato frainteso il sindaco. Ma sarà stato frainteso, però quella frase l'ha detta, infatti si è scusato. Cioè, se uno non avesse detto nulla non si sarebbe scusato, o no? Allora, guardi, se vuole ha intenzione di parlare con il sindaco e sente la sua voce, fra pochi minuti la richiama e lo richiama e può parlare. Vabbè, allora richiamo io, dai, richiamo io. Ok, grazie. Vabbè, allora, diciamo, ecco. No, lo richiamo, è per sapere se ha intenzione di fare, per carità. Allora, Flavio da Roma, dai, Flavio. Flavio. Ciao. Volevo dire a Parenzo che con questo perbenismo stupido dice solo delle gran cazzate. Allora, bisogna riconoscere che dietro tutti gli attraversamenti del Mediterraneo c'è una tratta delle persone. Questo è un business criminale, Parenzo. Apri gli occhi. Qual è il business criminale? C'è della gente che paga. Su questo non c'è dubbio che ci sia un business criminale. Ragazzi, per anni in Italia, ma succede ancora adesso, fare arrivare dei migranti qui è stato un business clamoroso per i partiti, per le cooperative. Io parlo dell'Italia perché sono le cose che conosco meglio. È stato un affare, al di là dell'aspirazione della gente, della migrazione, della felicità. Noi ce la possiamo raccontare come vogliamo. Certo che c'è la ricerca della felicità da parte di qualcuno, non c'è dubbio, ma non ce ne possiamo fare carico. Non ce ne possiamo fare carico. E sai qual è la cosa interessante, secondo me, Parenzo? È che questo perbenismo alla Boldrini. Ma non c'è nessun perbenismo. Sei diventato come la Boldrini, ha ragione con l'ascoltatore di prima. Sei diventato come la Boldrini, tu dovresti vergognarti. Non c'entra nulla. Questa è una totale disconnessione dalla realtà. La gente che va per le strade, la gente che lavora, che cammina in questo paese, è incazzata nera perché questi privilegi che vengono dati a chi ma non paga le tasse. Ma di cosa parla? Privilegi? Privilegio, amico mio. Ma di quali privilegi sta parlando? Chi arriva, te lo spiego. Ma di quali privilegi parla? Delle cure mediche ai migranti che sbarcano alla Lampedusa? Che privilegi sono? Benefit, come dicevo qualcuno. Ma quali? I benefit ce li hanno i manager, non i migranti. Salame! Stupido! Scemo! Cretino che non sei altro, ascolta. Stupido che il cervello ti fa difetto. Tu sei un idiota, ascolta. Lei è una persona il cui cervello fa difetto proprio, fa difetto. Quel giorno i suoi genitori sarebbero dovuti andare al cinema, ha capito? Argomenta, cretino. Ma non c'è da argomentare. La pillola del giorno dopo non esisteva evidentemente all'epoca. Arriva in mamma mia, un preservativo in più allunga la vita nel suo caso. Mamma mia. Ma come si ma quale ma che un cosa dice? Italiano. Ma che non cosa dice? Ma cos'è un concentrato di stupidi? Ma che cosa dice? È bella, sai qual è la cosa bella? Che sei anche un cretino ebreo, perché ecco, vabbè, ebreo che c'entra, scusa, ebreo che c'entra, scusa, eccolo qua. Eccolo che si qualifica da solo, si qualifica da solo. No, ma guarda che non ha nulla a che vedere col razzismo. Dico solo questo, il tuo Dio è il Dio del Vecchio Testamento. No, ma lei è semplicemente stupido. Lei è semplicemente uno stupido. È un Dio molto equo, è un Dio che dice occhio per occhio, dente per dente. Dai la giustizia. La giustizia dice che tutti dovrebbero essere trattati nello stesso modo. Un contribuente italiano che non ha tu nulla... Tu dici discriminato nei confronti di un immigrato. È completamente discriminato. Non ha nulla a che vedere con la ricerca della felicità, che è sacrosanta. Ma fin tanto che non riconosciamo il fatto che dietro questo c'è un business nei paesi di partenza. Clamoroso. Ma di partenza, clamoroso. Prima ancora che... Ciao, Fla, purtroppo hanno guadagnato già tanti soldi tutti con questa storia. Abbiamo finito di ascoltare flatulenze? Allora, ti devo dare una notizia, David. Ti ricordi quando qui Toscani da noi disse quella frase lì? Quella frase su Salvini. Quale frase? Ne ha dette tante. Sì, è vero, ne ha dette tante, hai ragione. Disse una frase su Salvini che fa i pompini agli elettori, ai leghisti, una cosa del genere. Voleva dire, li vuole sfrucugliare, no? Li vuole bellicare. Sì, vabbè, risentiamo questa frase, risentiamo. cazzo l'ha letto come un pirla, ma neanche come una prostituta di provincia, un pompinara di queste qua da due soldi. Ma ragazzi, Salvini fa i pompini, non so, va benissimo per quello. Ma come fai i pompini? A chi li fai i pompini? Non so, io fa anche rima. Ho capito, ma tu... Salvini fa i pompini ai cretini. Se io votassi per la Lega, vedo il mio leader così, gli dico: vai a cagare, ho capito che ho sbagliato tutto. Erano le immagini di Salvini nudo sulla copertina, fa pompine ai cretini. Sì, è stata la notizia così, questa, ed è una, se vogliamo, una primizia, non dico uno scoop perché non è uno scoop. È stato condannato Toscani a ripagare, a risarcire Salvini per 8.000 euro. Mi pare una condanna eccessiva. Più spese assurda, processuali, per aver detto: Salvini fa pompini ai cretini. Mi sembra incredibile. Dai, zucchero, non si molla un cazzo. Siamo tutti con te. Zucchero, la la la la la. Zucchero, la la la la. Zucchero, la la la la la. Zucchero, la la la la. Zucchero, la la la la la. Zucchero, la la la la. Zucchero, la la la la la. Zucchero, la la la la. Dai, cazzo. La zanzara. Cesco, cosa pensi della zanzara di Cruciani e di Parenzo? È un programma inutile e dannoso. Questo non credo. Cruciani, non ce la faccio più. Voglio suicidarmi. Dammi il telefono di Lucia, che vado da lei a farmi fare un calippo. Ciao, grazie. Stai zitto, ciucciacazzi! Gli studenti che occupano vanno manganellati perché l'illegalità. I campi rom vanno buttati giù tutti perché l'illegalità. I mafiosi per l'illegalità, quegli altri per illegalità, e a Brescia due bruciano la sacra proprietà privata, secondo te, Cruciani? Ed è la gente che non vuole i profughi e non ce la fa più. Ma sei veramente un coglione. Ah, Parenzo, abbiamo capito perché vuoi gli immigrati, perché quando ti fai vecchio vuoi qualcuno che ti pulisca il culo e che ti scaraffi l'acqua nella brocca. Vuoi il filippino, bravo! Parenzo! Allora, caro David, io ti faccio riascoltare la frase della Bonino. Ottima, la signora Bonino. Dovresti mandare solo questa, dovresti mandare oggi, solo questa, perfetta. No, ma è perfetta. La Bonino dice una cosa incredibile, che siamo stati noi, cioè il nostro governo, le nostre istituzioni, lo ripeto ancora una volta, a decidere che gli immigrati arrivassero in Italia, che sbarcassero in Italia. Che sbarcassero, cioè, non è che abbiamo detto ai migranti venite qui, venite pure. A parte pure. Che è come dirlo, per un atto se li prendiamo umanità, è come dirlo. Comunque per, risentiamo no, sta cosa assolutamente umanitario. Sì, detto ho capito, ma certamente. Però sentiamo questa cosa qui. Bisogna che ci diciamo che bisogna tentare di cambiare. Ma il fatto che nel 2014 e 2016 abbiamo chiesto che il coordinatore fosse a Roma, alla Guardia Costiera, e che gli sbarchi avvenissero tutti quanti in Italia, l'abbiamo chiesto noi. L'accordo l'abbiamo fatto noi, violando peraltro. Ecco qua. Allora, andiamo a Barese, Jacopo, vai. Il miglior vai. Ministro degli esteri che l'Italia abbia mai avuto negli ultimi della storia repubblicana. Il miglior ministro degli esteri. Il migliore. Bonino, una cosa pazzesca, dai. Via. Il miglior ministro degli esteri. Dai, Jacopo, vai. Buonasera, volevo salutare il signor Parenzo, che è veramente un mito per me. Sì, bene, meno male. Lei è espressione della maggioranza silenziosa? Niente, volevo chiedere al signor Parenzo se gli piace il signor Spara. Se gli piace? Il signor? Che Guevara. Che Guevara, beh, non so no, se ha avuto mai il mito di Che Guevara. Particolare, cioè non ho mai avuto il manifesto che di Che Guevara. Che c'entra Che Guevara adesso? Camera, perché dobbiamo tornare a tempi? Volevo sapere se, visto che a lui gli piacciono i culattoni come li chiami te, gli sarà pure d'accordo per il matrimonio e l'adozione. Che c'entrano i culattoni con Che Guevara? Perché Che Guevara dice che lo fosse. Perché faceva fuori un po' di gay a Cuba? Sì, che aveva fatto tutte quelle belle prigioni per gli omosessuali dissidenti, no? Non Che Guevara, diciamo. Beh, sì, anche lui. Una bella fotografia o manifesto del... È vero? No, ma non ce l'ha il CE, non è il mito. No, non ho mai avuto io la, in camera da letto la Jasper John Flag, che è la bandiera americana, caro. Non ho il mito di Che Guevara, non me ne frega niente. Però ti piace il Berlinguer sotto l'acqua davanti alla Fiat, eh? Certo, il Berlinguer sotto l'acqua. Ma che c'entra, ragazzi? Ma che c'entra la Fiat? Mi piace moltissimo. Prendevi i soldi. Vabbè, Jacopo, ciao, ciao. Quali soldi? Francesco da Treviso, dai. Beva di meno, beva di meno. Francesco, vai, dimmi Francesco, dimmi. Luciani, sta a sentire, io sono stufo di sentire tutti i giorni sì. Parenzo a sparare un sacco di boiate. Sì, ma le spariamo tutti. È un dittatore mediatico. Dittatore mediatico. Peso del Duce. Invito tutti gli italiani a intasare i centralini di Radio 24 per proporre il referendum o per mandare a casa... fuori dai coglioni con l'imbecille di Parenzo. Cioè, dove si firma? Radio seria come Radio 24 continua a far parlare uno stronzo del genere. No, a far parlare, a pagare anche. Mi porta le gente. Attento, Bifolco? Bifolco, scusi, Bifolco, non soltanto a far parlare, che già sarebbe, come dire, meraviglioso. Perché io parlo due secondi, tu parli tutti i giorni e di stare un sacco di trottate. E per forza, tu mi pagano, devo parlare. Tutti. Io in Italia pago le tasse e ho il diritto di avere chiaramente la parola. E infatti sta parlando. Sì, infatti purtroppo sta parlando. Purtroppo sta parlando. Lei sta parlando gratis. Io, ecco, guardi, la differenza. Lei sta parlando gratis. Aspetta. Io no. I centralini per proporre il referendum per mandare fuori dai coglioni Parenzo. Bellissimo. In modo tale che diventi un miserabile e che sbarchi in Italia come clandestino, capisci? Quello per capire un attimino che merda ci sta proponendo. Sei uno stronzo. Sbarchi. Ma perché uno stronzo? Grazie, va tutto bene. Stai portando al suicidio di massa. Non ne posso più di te. Volevo capire, lei ha studiato alla scuola di Einaudi? È una parola inutile che stimola il suicidio di massa. Sei peggio di Hitler, tu. Ma come? Che vuol dire suicidio di massa? Nel senso successo? Che ti stai, stai suicidando. La giornata voglio brutta. Che Radio 24 ti cacci via. Sono stufo di sentirti sparare stronzate. Io voglio parole a favore degli italiani che siano protetti. Che parole siano a favore che degli italiani? Cosa che vuol siano dire? Chiaramente, che abbiano i loro diritti sanciti dalla legge. Non tutte le stronzate che propone ogni giorno. Senta, Bifolco. Stimolando il suicidio Bifolco. Di massa. Bifolco? Signor Io Bifolco? Sono Bifolco. Ma tu non sai neanche cosa significa Bifolco. Dimmi cosa Bifolco. Significa Bifolco. Ma che mestiere fai, Francesco? Non sei altro. Che mestiere Bifolco. Fai, Francesco? Io faccio il contadino, caspita, e mi faccio il culo tutti i giorni. Ottimo. Per mantenere gente con quello stronzo di Parenzo che venga qua. No, lei non mantiene nessuno. Lei a me non mi mantiene per nulla, caro. Vai a fare il contadino. Voglio che gli italiani intasino il centralino di Radio 24. Ma perché? Perché facciano un referendum su mandare a casa sto stronzo. Ma perché? Sì, ma il referendum va benissimo. Io adoro i referendum popolari. 800 24 0024. Gli italiani al suicidio di massa. Non esageriamo, suicidio di massa. Ci sarà qualcuno. Lei secondo me ha avuto una brutta giornata, tutto, guardi. Tutti, quella povera donna là in questo palazzo di negri che la seviziano, che la ma non la ma quale la donna? Quella di ieri, la donna di ieri. Ancora trova il tempo per giustificarli, ma la seviziano. Ma non l'hanno seviziata, non l'hanno seviziata. Semplicemente c'è un po' di odore di cibo, ma come in qualunque altro posto. No, che un po' di tu giustifichi tutto. Vai a vedere a Milano, la stazione centrale, vai a vedere le metropolitane. Ho vissuto a Milano 10 anni. Vai fuori dai supermercati. Ma dai, vado fuori dai supermercati, lei però mi faccia una cortesia, vada a fare il culo, io vado fuori dai supermercati, ma lei faccia una cortesia, vada a quel paese, mi faccia questa gentilezza, mentre io vado fuori dai supermercati, lei vada a quel paese. No, ma devi dirgli vai a fare il culo, perché a quel paese? No, io vado in mora perché a te non tira neanche l'uccello. No, tu però stiamo esagerando. Siamo passando all'uccello che non c'entra assolutamente nulla. Sì, vabbè, Parenzo è un perverso. Ma perché è un perverso? Per cui qui devo fargli la querela, mi dispiace. Non mi può dispiace. Rovinare uno stile mediatico di ma qual è lo 4, ma quale stile? In quella maniera. Sì. No, ma di che stai parlando? Ragione, di che stai vabbè, comunque ragione. Giuseppe stile dalla provincia di Caltanissetta, vai Giuseppe. Giuseppe, dimmi Giuseppe. Eccomi qua, ciao Cruciani. Io volevo intervenire in merito alla notizia che è uscita qualche giorno fa del nostro caro ministro Minniti, che si è alzato una mattina tutto bello sborone e adesso chiudiamo i porti, tanti dopo che c'è gente che lo dice da tempo, comunque chiudiamo i porti. Non l'ha mai detto, ufficialmente non l'ha mai detto, comunque vabbè, dai. Ufficialmente è uscita la notizia, comunque forse si pensa che si potrebbe ragazzi sicuramente l'ho già detto, cioè, ormai ho l'Alzheimer, mi scordo di tutto. Qui bisogna riabilitare il signor Zuccaro. caro Parenzo, bisogna riabilitare Zucchero. Che va santificato. Starà facendo. Che fine ha fatto? Lascia stare, intanto va avanti, va avanti. Come mai non parla più? Come mai non parla più? Ma scusa, hai detto che non doveva parlare? Perché non parla più? Ma hai detto che non doveva parlare, adesso vuoi che parli? No, ho detto improvvisamente è sparito dai radar, ha capito che doveva... Ma aspettiamo che trovi delle prove, aspettiamo che trovi prove. Oh, fammi parlare, ma mai come in questo momento è risultato il più grande magistrato del mondo. La prima cosa, guarda, la prima cosa che stanno facendo in merito alla legge, alle prime misure che stanno adottando per le ONG, non spegnete i transponder, prima di caricarli avvisate la guardia costiera. Cazzo, Zucchero diceva prima che c'era qualcosa. No, ma soprattutto quelli che hanno, come dire, le navi... Le navi con la bandiera di una certa nazionalità devono portarle, esatto. No? E devono portare gli immigrati in quelle nazioni, nei loro paesi. Non scaricarli da noi, si fottono i soldi, li scaricano da noi e ci lasciano nella merda. È la prima cosa che stanno facendo. Com'era la canzone, Giuseppe? Com'era la canzone? Ciao, Carlo Frosinone, vai. Carlo Frosinone, Zucchero, sì, il cantante Carlo, Zucchero, Carlo Frosinone, vai. Bravo, Zucchero. Pronto? Dimmi Carlo, dimmi. Ciao David, ciao Beppe. Vai, dimmi. Allora, ciao. Volevo introdurvi un nuovo archetipo, un nuovo argomento. Sì, dimmi. Visto che si è parlato sempre della donna tsunami, dello squirting, sì, ottimo, spero, ottimo, sì. Volevo introdurre un nuovo argomento. Qual l'uomo è? Tsunami. Che ne sarebbe penso? L'uomo tsunami, scusa, non come ho capito. Che, l'uomo tsunami, cioè... Quando tu comunque qualcuno eiacula, cosa fa? Cioè l'eiaculazzo copiosa, dici tu. Esatto, un'eiaculazzo copiosa. Ma amico mio, diciamo la verità. Adesso, noi è vero che ci siamo specializzati negli anni in argomenti sessuali, eccetera, eccetera. Sì. Però, ripeto, adesso tu vorresti introdurre quest'altra cosa. Ma qui si entra in un dettaglio, in un super dettaglio, non è un argomento sociale. Mentre lo squirting in qualche modo è stato affrontato da sociologi, da professori, da persone anche estranee al mondo del sesso, giusto Parenzo? Come sai benissimo. Ma no, anche sì, tu. Carità. Beh, questo argomento che vuoi proporre è un argomento un po' troppo specifico, devo dire la verità. Comunque, se vuoi qualcuno, se ci vuole spiegare, se veramente esiste questo fenomeno, diciamo, dell'uomo che viene copiosamente, faccia pure. Ecco, mancava questo. Ciao amico aspetto. Mio, ciao. La mia specialità è lo squirting, amore. Beh, amica mia, Parenzo! Spruzzavi acqua dalla vagina ed io mi preoccupai. Spruzzare, cos'è lo squirting? Mi visita un dottore, mi disse non è niente, è nettare d'amore. No, io faccio altre cose. Io cago addosso ai clienti. La zanzara. Chi vuoi che venga al tuo funerale? Bertolucci, Bernardo. Sì. Sì. Benigni. Sì. Cruciani. Sì. Parenzo. Sì. Salvini. Però no, Salvini no, per carità, no. Poi no, le persone più care, più vicine, Borghezio. Diciamo. No, Borghezio. Per esempio Penelope Cruz. Penelope Cruz. Sì. Berlusconi? Sì, che molto... Anche magari sì. Guarda, accetto tutti. Tutti. Ma come tutti? Tutti. Ma non è possibile. Tutti. Più persone, più gente di colore. Esatto, anche vengono pure anche migranti. I Rom. Ecco sì, i Rom. Cani e porci. Ma come giudichi, per esempio, quelli che si battono il petto, Mattarella, oggi la Boldrini e altri politici che esprimono dolore? Come li giudichi? Anche il Papa, dai. Anche il Papa, certo. Sì, profondo dolore, non gliene frega un cazzo, scusatemi la parola. Ma non è vero. Possono rimanere impressionati di vedere annegare i bambini, possono rimanere scioccati da quella morte terribile, annegati. Sì. Ma non è che si provi profondo dolore. Il profondo dolore è sempre molto cattolico e molto inventato. Dunque anche il Papa, secondo te, è ipocrita in questa cosa? Direi di sì. Allora, questo era il villaggio cattivo, era il villaggio che non vi fanno sentire in questi giorni, o ve lo fanno sentire poco, il villaggio ovviamente tra il serioso, ogni tanto il divertente, forse fingeva, forse no, non mi interessa, era il villaggio cinico, villaggio cinico, che è quello che piace più a me, per esempio, quando disse una volta che gli omosessuali sono un'anomalia genetica, non perché sia d'accordo, non sono d'accordo assolutamente, ma voleva ovviamente provocare, voleva fare casino. L'omosessualità è un'anomalia genetica e va compresa fino in fondo. La Zanzara. Allora David, senti questo WhatsApp di questo islamico, di questo islamico, di questo muslim, dai, mi piace, ormai è entrato quasi nel gergo comune, muslim. A Salusti non piace l'Islam, non fa niente, perché l'Islam continua a bruciare il suo culo, pezzo di merda Salusti! In realtà si riferisce non a Sallusti, ma si riferisce secondo me al signor Meluzzi, perché no, arrivava... Però voglio dire, la minoranza rumorosa esiste anche dell'Islam, quindi voglio dire, non è... No, ho capito, ma l'Islam brucerà il suo culo è quasi una minaccia al signor Meluzzi. No, è come dire, no, una minaccia, brucerà, nel senso che gli ma insomma, no, adesso però tutte le minacce che costantemente fanno quegli adorati camionisti Etzimilia che telefonano e dicono le cose più invereconde, non mi pare che destino il tuo scandalo. Ora improvvisamente un esponente della minoranza rumorosa che appartiene anche al all'Islam dice delle cose, insomma, perché ti stupisci per lui e non per Donato D'Avarese? Sì, però io te lo faccio io, però no, ma io mi quello stupisco. È Donato D'Avarese dell'Islam, esiste però anche io te lo lì, faccio ottimo, risentire sono integrati, te lo... vuol dire ma, sono sì, ma te lo faccio risentire, però, perché una cosa è una minaccia di Donato che non ci sono, tra l'altro sì ci sono, ma insomma non vengono messe in pratica, ammazzo di qui, quelli devono essere ammazzati, quello deve essere impiccato, che questo qui sia un potenziale assassino. Ma una cosa è detto da un esponente islamico che si no, ci sarà qualche differenza, cioè, o no? Il fatto stesso che sia un islamico, quello che dice deve essere più monitorato che non un coglionazzo come Donato D'Avarese qualunque, questa aspetta, è la tesi. Aspetta. Pronto? Allora, che cos'è che deve fare Meluzzi? Ma con chi sta parlando? Pronto, qui la Zanzara, buonasera. Buonasera, ma con chi volete parlare? Io sono Tahir. Sì, Tahir, con te. Hai detto Meluzzi, pezzo di merda, l'Islam brucia il tuo culo. Sì, è vero questo qua, no? Ma è vero cosa? Perché deve bruciare il culo di uno, scusa? No, quando lui parla dell'Islam, a lui brucia il culo, è vero o no? Ma che vuol dire brucia il culo? Brucia il culo perché Islam gli dà fastidio per nulla. Islam a chi rovinato? A chi dato il fastidio? Allora qua la gente lavora! Lavora notte e giorno per 4 soldi per mantenere la famiglia. Ma qual è l'Islam? Io ho 10 anni che vivo qua in Italia. Ma quante volte sono andato in moschea? Non ho avuto neanche il tempo di andare 2 volte in 10 anni. Ma tu che cazzo dici che qual è l'Islam? Senti, ma qual è l'Islam? Tahir, stai calmo, No, ma qual è calmo? Tahir. Allora, voi, come dice Parenzo, allora tu sei distruttore di questo paese. Io sono distruttore di questo paese. Tu fai. Tu fai delle cose, tu dici delle cose che non esistono. Allora, quale problema c'è dell'Islam? Fammi capire, no? Perché scusa, non ho capito. Siete oggi, incompatibili, siete incompatibili con la democrazia. Oggi il giornalismo e politica in Italia funziona su due cose. Siete allora, incompatibili con la democrazia. Contro l'immigrazione e contro l'Islam. Senti, Tahir, siete incompatibili con la democrazia, secondo Meluzzi. Ma secondo... non è vero, ma chi dice? Ma chi dice? Fammi capire, no? Perché allora io voglio capire... Ma che tu come sei... Da quanto sei qua, muslim? Da quanto sei qua? Allora, io sono... 10 anni vivo come qualsiasi altro cittadino. Vabbè, ma non vai in moschea, ormai non sei manco più islamico, diciamo, se non sei muslim. Ma è un'altra cosa, è la fede non si vede, amico mio, ma come ti devo far capire? Ma perché hai detto che pezzo di merda Meluzzi? Non ho capito. Tu puoi offendere il mio libro santo, il Corano. Allora tu puoi offendere, e che cos'è questo cazzo libertà di che cos'è questo giornalismo? Ah, non ti piace la libertà? Non ti piace la libertà? Non ti piace? Libertà. Allora se io parlo contro gli omosessuali, allora io sono cattivo. Se io parlo contro a qualcuno sono razzista. Allora tu parli contro l'Islam. E denunciami. Ha ragione l'ottimo Tahir. Scusami, tu puoi insultare il Corano e lui non può insultare Meluzzi? Ma dove è scritto questo? Bravo Tahir. Allora, Parenzo, scusami perché io stavo al lavoro, guarda. Non ti preoccupare, fratello mio, ti chiedo scusa. tu sei un immigrato che lavora, che è inserito nel tessuto sociale e produttivo di questo paese, lascia che ti dica a nome della maggioranza Parezzo, silenziosa, Parezzo, grazie. Grazie. Come la persona, ecco, ecco, l'ebreo l'ebreo e il muslim trovano un punto di contatto. L'ebreo e il muslim. Tu vuoi fare, diciamo, ma non ho capito qual è il problema del partito anti-islamico. Qual è il problema del partito? Ma già ce ne sono tanti, ma già ce ne, già c'è Salvini, già c'è Fratelli, come si, questi qua, Meloni, ma non c'è, perché allora prendete per culo a questo popolo? No, perché allora è già rovinato. Ma non si può fare ironia? Non si può fare ironia? Arrenditi, arrenditi, il libro sacro. Non c'è la fede di qualche persona. L'Islam che brucia il tuo culo, Meluzzi. L'Islam brucia il tuo culo. Questo è gravissimo, quello che hai detto. È gravissimo. L'Islam brucia il tuo culo. Non è gravissimo. Forse non hai capito vuol dire. Perché allora l'Islam non pone un pericolo a nessuno. Ma come non pone un pericolo? L'Islam non è un pericolo per nessuno. L'Islam, sì, come hai il coraggio di dire una cosa del genere? Che l'Islam non è un pericolo. Che coraggio hai di dire una cosa di questo tipo? L'Islam non è un pericolo per nessuno. Ma di che parli? Sì. Chi parli? Allora parli tu, allora dice che Islam non è compatibile, Islam questo, Islam quello, allora che nella tua non vita mi pare sia, non, mi, non mi pare che sia compatibile con la democrazia. Tahir, comunque ciao, ti saluto, ciao Tahir, ciao, ciao. Mamma mia, che battaglia col signor Tahir. Tahir, Parenzo, dove sei? Ah, devi andare via, cazzo. Ah, dottore, è partito il ricevimento Buckingham Palace, non più a Palale Ladio. Saluti. Vabbè. Diego, provincia di Savona. Diego, provincia di Savona, vai. Eccoci sì, qua. Sì, dimmi. Allora, volevo innanzitutto mandare a fare in culo Parenzo. Come prima cosa, anche se non c'entrava niente, perché se lo merita. Sì. Poi come seconda cosa volevo dire che sono veramente felicissimo di questa condanna di Oliviero Toscani, perché penso proprio che se la meriti. Cioè io non sono mai andato a puttane. Io sono contrario, però io sono, scusami però, Diego, tu stai godendo, sei felicissimo per la condanna di Toscani, io francamente no. Devo dirti la verità, non sono mai contento quando uno esprimendo un'opinione, anche se è un'opinione chiaramente forte, detta in un certo modo eccetera eccetera, viene condannato. Francamente, chiaramente era una metafora, fa i pompini, non è che era un'offesa sessuale o un'offesa di qualche tipo. E ce l'abbiamo di nuovo la frase da far sentire, quella frase di Toscani, cioè la frase di Toscani qui alla Zanzara, per cui è stato condannato a 8.000 euro, è stato condannato a 8.000 euro di risarcimento a Salvini. Risentiamo. Cazzo, ha letto come un pirla, ma neanche come una prostituta di provincia, una pompinara di queste qua da due soldi. Ma ragazzi, Salvini fa i pompini, non so, va benissimo per quello. Ma come fai i pompini? A chi li fai i pompini? Non so, io fa anche rima. Ho capito, ma tu... Salvini fa i pompini ai cretini. Se io votassi per la Lega, vedo il mio leader così, gli dico, ma vai a cagare, ho capito che ho sbagliato tutto. Vabbè, allora Diego, non ho capito, perché devi essere contento? Sono opinioni anche forti, espresse. Tu dici ce l'ha talmente tanto con la Lega che sei contento che sia stato condannato. Ma ce l'ha anche con Sgarbi, che è un mito, eh. Cioè, vabbè, ma quello che cazzo c'è? Ognuno ce l'ha con chi ce l'ha. Vabbè, ma non può dire che Sgarbi è impotente. Cioè, mi potranno girare i coglioni. Che ma se la prendesse, ma che te ne frega a te? Ma che te ne frega a te? Potrà interessarmi a me. Poi Oliviero Toscani c'è una persona colta, ci mancherebbe, posso essere anche invidioso della sua cultura e perché sa argomentare le sue idee. Però cavolo, la va bene, ciao Enrico Parma, vai. Adesso, perché la pensa al contrario di te, sei contento che sia stato condannato? A me non me ne frega niente, io sono contrario a tutte le condanne quando uno esprime liberamente il suo pensiero. Non credo che sia un'offesa nei confronti di Salvini utilizzare quell'espressione là fortissima, espressioni forti le utilizza anche Salvini. Enrico da Parma, dai. Sì, buonasera. No, io guardo, intervenivo molto velocemente. Buonasera a tutti. Sì. Semplicemente per mi dissocio un attimo dal coro, non voglio fare commenti sulle tematiche in corso, immigrazione, Salvini, ok. Quanto e allora che puoi dire? Registravo solo questo, cioè io domando questo, cioè se io ascolto la radio, cioè noto che capisco che la Zanzara è un programma volutamente un po' provocatorio, quindi uso un linguaggio anche abbastanza, sì, voglio dire... Esattamente, sì. Allora? D'accordo. Però mi sembra che un registro lessicale così eccessivamente volgare e scurrile... Sì, la parola volgarità... La parola volgarità e scurrilità ha diversi significati. Il significato che lei attribuisce è un classico. Guarda, conosco benissimo l'argomentazione. Conosco tutto. Comunque finisci, dai. Mi sembra semplicemente un po' gratuita a un certo punto. Io posso capire tutto, non voglio fare il moralista. Però magari certe cose, certi concetti si possono dire anche, senza, guarda il punto è ma ho capito Enrico, tutto. Il punto è che le parole volgarità e scurrilità hanno un significato diverso a seconda di chi le pronuncia, cioè se uno intende queste cose qui nel senso tradizionale, l'utilizzazione di epiteti, parolacce eccetera, ci sono dei libri che sono stati scritti, dei tomi interi che contestano e confutano quello che stai dicendo. La scurrilità e la volgarità non sta nell'utilizzazione delle parole, ma sta soprattutto nelle idee. Chiaro? Quella è la vera volgarità. La volgarità è molto più volgare. Il sindaco di quel cazzo di paese, Pimento, in provincia di Napoli, che ha detto bambinata di fronte allo stupro di una ragazza di 15 anni, piuttosto che i cazzi pronunciati in questa trasmissione. Chiaro? Su questo sono d'accordo. Basta. Sarà più volgare la parola bambinata. Magari quel sindaco non ha mai detto una parolaccia in vita sua. Ma è molto più volgare quello che ha detto. È molto più scurrile. Basta, solo questo. Ma non sono d'accordo neanche io. Però semplicemente non sono d'accordo neanche io. Se vuoi fare il perbenista, il borghese, dite le parolacce, oddio le parolacce, ma chi se ne frega? Non è fare il borghese, io semplicemente ho dato il mio parere. Ma io rispetto la tua idea, io ti rispondo in questo modo. I radioascoltatori te lo do, poi ti dico, radioascoltatore, ti abbraccio lo stesso, ti abbraccio. E io di spegnere meno. Ciao Enrico, Marco Genova, vai Marco. Marco. Ciao parenti, sì ci sono, sì dimmi. Ti dico. Fondamentalmente, quando parli delle persone che muoiono attraversando il mare, eccetera, è una cosa veramente forte. Quella, a parte la volgarità espressa da Enrico precedentemente, questa è la cosa più volgare che tu sei in teoria una persona che colta, vuol dire, scusa, parli dello. Hanno associato l'olocausto in mare. Ma è una vergogna dire una cosa del genere, come ha detto quel medico lì ieri sera da Parenzo. È una vergogna, non esiste. L'olocausto fu scientificamente deciso per ammazzare milioni di ebrei. Quello ha utilizzato la parola olocausto riferita alla morte in mare degli immigrati, che non c'entra una beneamata mazza. Lo vogliamo dire o non lo vogliamo dire? E questo ti giustifica nel qualificarlo una persona di ma io non ho detto profilo, una persona non c'entra niente io vedi che non hai capito genere. Non hai capito veramente un cazzo, perché io non ho detto una persona di basso profilo, senti, ho detto Cruciani, che è un grandissimo professionista. Fai una bella cosa, vedi di essere un po' meno maleducato e vedi di non interrompere le persone che lo dico io perché mi stai interrompendo. Ma forse non hai capito che qui decido io. Forse non hai capito bene. Sì, esattamente. E a me che cosa me ne può fregare? Perché è un maleducato che interrompe le persone. Ma chi l'ha detto? Io interrompo e ti sto facendo parlare. Ti sto facendo parlare. Che fai? Ti girano i coglioni? Sì, proprio perché devo parlare con una persona come te. Allora aspetta un attimo. Aspetta un secondo. Aspetta, ho i miei tempi. Ho i miei tempi, ho la pubblicità, imbecille. Aspetta. Scemo, che cazzo vuoi? Stai tranquillo. Stai calmo. No, ma rilassati. No, tu devi essere rilassato. Io sono calmissimo. No, guarda. Tu devi essere educato, devi far finire no, educato, di educato persone, quando lo decido io. Quando, tu non sei, quando sei lo decido una io. Orribile, ma quando lo decido io? Quando lo decido io? No, sei una persona orribile. Decido io come devo essere. Non me lo dici tu, chiaro? Decido io come devo essere. Non me lo dici tu. E questo è matematico. Si vede. Ma questo lo dici tu che sono una persona orribile. No, non lo dico io. Non lo dico io, è naturale. Chi lo dice? È naturale che sei il diritto naturale? Esiste? Il diritto naturale è naturale secondo chi? Ma secondo chi? Ma chi lo dice? L'interruzione qualche volta è salvifica. Come in questo caso, devo dare la borsa. L'interruzione è salvifica. È salvifica, ci salva. Dobbiamo fermare l'Islam in Italia non deve esistere. Ma chi è il Papa? Ma chi è? Io sono Cristo. Dobbiamo fermare l'Islam. Io sono Cristo. Querelatemi. Io devo salvare l'Italia. la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Nilox.com, dove la tecnologia diventa sport. La Zanzara. Io in passato sono stato innamorato, fidanzato, mettila come vuoi, con una ragazza arrivata dall'Uruguay, appositamente a Milano per fare la puttana. L'ambulanza fa, dice, perché cosa è morta? Cosa ne so, ho detto io. Mi vergognavo di dire che avevo fatto un calippo. Calippo? Non ho capito che mi stai dicendo. Cruciani e Sgarbi li amo. Ma lo sai che Cruciani non si lava? Ma dai, ma che dici? Io lo amo lo stesso. Prima Annarella, poi Paolo Villaggio. Io fossi Sgarbi, una toccatina Maroni me la farei. Beh, però, caro Sgarbi, è vero che c'è una foto che circola su internet in queste ore in cui la foto di Radio Belva, naturalmente allo stesso tavolo Annarella, morta un mese fa circa, forse meno, Villaggio morto l'altro giorno e zio Sgarbi, però non credo che... Io non credo a queste cose poi. Allora, con chi ero al telefono? Con Marco da Genova. Intanto uno mi scrive: spero chiudano presto la vostra trasmissione, siete dei violenti, la violenza è volgare. Vabbè, ma questo è un cretino. Va benissimo. Marco da Genova, vai. Marco, allora. Ecco. Allora, che stavi dicendo? Non ho capito. Ti sto dicendo che sei una... che quando interrompi e non fai per terminare un concetto, sei, sì, e resti una persona orribile e sì, lo sei in quanto tale. Comunque, sì, a parte... Guarda che interrompere, dire... però, ti voglio dire una cosa. Interrompere qualcuno ogni tanto è vitale, è salvifico. Te lo dicevo prima, è salvifico interrompere qualcuno. Come fai a dire una cosa di questo tipo? Cioè, posso darti ragione, ma il tuo ogni tanto non può essere un ogni sempre. Ma no, okay? Ma c'è il ritmo, c'è uno stile di conduzione, eccetera. Marco, che sei con l'auricolare innanzitutto, viva voce? Non sono con l'auricolare. Vai, mi sono, dimmi, che cosa volevi mi sono dire? Fermato apposta. Bravo, comunque, dal mio punto di vista, ti volevo dire una cosa in merito ai trasbordi, eccetera. Facciamo una bella cosa, instauriamo la legalità, forse è un concetto che ti piace per certi versi. Invece di mettere tanti soldi in tasca ai passeur, alle persone che guadagnano grossi denari da questo, facciamo delle belle agenzie di viaggio di Stato dove stampiamo bei visti di transito per tutti. Arrivate qua con un aereo, tranquilli, senza nessun problema. Cosa ne pensi? Una stupidaggine, ma cosa vuol dire? Non le persone non devono... Non ne dubito perché tu non sai altro dire, a prescindere inizializzato, che è una stupidaggine. Non hai neanche riflettuto un secondo. Senti, perché no, non sento. Ma cosa vuol dire certo far venire punto, le persone con l'aereo? Ma cosa vuol dire? Allora, si parla del... come pensi che un migrante... I migranti economici non devono arrivare perché non possiamo prendere tutti. Bene, non li possiamo altri, prendere bene, tutti. Ok, va bene. Quando gli qualcuno arriva, okay, è evidente che questa qua deve essere. Bene, scusami, Marco. Questa qua e è, gli una, altri, questa altri, qua altri, è un'aspirazione che ogni governo dovrebbe avere. È evidente che poi qualcuno arriverà, no? È evidente che qualcuno arriverà. Ma se tu dici che non deve arrivare nessuno e se fai in modo. Scusa, hanno bloccato i porti della Sicilia per un periodo. Dovrebbe essere esteso a tutte le regioni d'Italia ogni giorno dell'anno. Hai visto cosa hanno fatto in Australia? Ma hanno fatto proprio questo. Ottimo. No, non è ottimo. Ottimo, l'Australia è un grande paese da questo punto di vista, un grandissimo paese da questo punto di vista. Un paese enorme, fondamentale. Ragioni solo a slogan. Ma che vuol dire slogan? Io ho detto le cose concrete che fa l'Australia, che vuol dire? Non è una cosa concreta, te lo sto provando a dire. In che modo? Spiegami. Avanti. Te lo sto spiegando l'Australia adesso. L'Australia è un'isola, è lontana, che c'ha? È un'altra cosa, c'ha le miglia. Che cos'è la differenza? Spiegami. L'Australia ha fatto quello che tu stai dicendo, respingimenti totali, risultato. La gente va in Papua Nuova Guinea, sì, viene portata e Papua Nuova Guinea, tutte quelle... È quello che ti sto dicendo, si stanno beccando delle sanzioni dall'ONU, ma chi se ne frega? Quelle hanno deciso una cosa, l'ONU può fare qualsiasi sanzione, ma chi se ne frega dell'ONU, un ente inutile che dovrebbe essere cancellato. Bello. Ma chi se ne fotte dell'ONU, un ente inutile che noi paghiamo con i caschi blu che non fanno un cazzo in tutto il mondo, ma di che parli? Ma chi stai dicendo che non fanno niente in tutto il mondo? Nel 90% dei casi non fanno un cazzo, dai, su. No, forse senti Marco, l'ONU, l'ONU è un ente inutile, chiaro, per non me è un ente inutile, perfetto, che dovrebbe essere chiuso, giù la Claire, tutto, giù la Claire, immediatamente, giù la Claire. Addirittura. Non serve a un cazzo, nulla, niente, niente, niente al posto dell'ONU, niente, nulla. Ah, perfetto. Ciao Marco, perfetto, ti saluto, ciao, ti saluto. Sì, ciao, sì, ti ciao, saluto ciao, anche. Ciao. Allora, Marco da Caserta, vai. Ciao, ciao Peppe. Dimmi. Ascolta, riguardo Maradona e la cittadinanza onoraria, ora dobbiamo fare una divisione. Cioè, secondo me la cittadinanza onoraria è giusta per il valore sportivo che ha dato la città e ha dato la squadra. Se poi vogliamo parlare, quindi tu non mi puoi venire tu proprio a farmi la morale sul fatto che ubriaco, si drogava... Ma io non ho detto questo, stiamo dando la cittadinanza onoraria, mica la cittadinanza della discoteca Joy di Go. Tu sottolineavi sto dicendo che la cittadinanza onoraria viene data a personaggi emeriti. Il passato di Maradona, io ho detto, state dando ai napoletani, state dando la cittadinanza onoraria a uno che ha contatti con la Camorra, con boss della Camorra. Però la cittadinanza onoraria viene data per il valore sportivo in questo caso. Sì, amico mio, io stavo facendo notare questo, poi chi se ne frega della cittadinanza onoraria, ma va benissimo. Ieri si è presentato alla festa, si è presentata una festa completamente ubriaco. Ma l'hai visto o no? L'hai visto o no? Che c'entra questo con il valore sportivo? Ma c'entra, comunque c'entra. Ma c'entra comunque la cittadinanza onoraria. Non è che viene data, non è che viene data a tutti così a cazzo di cane, no? Viene data, scusa, si va a indagare sulla vita privata della persona. Allora se non c'è niente da indagare in questo caso, è tutto chiaro, non c'è nulla da indagare. No, tutto chiaro. In che senso è tutto chiaro? I rapporti con la Camorra, ma va benissimo, fate quello che volete. Siete magistri, se vuole fare questa operazione propagandistica e questa operazione mediatica, va benissimo. Ma va bene. Se parliamo infatti di Maradona, se vogliamo parlare della persona, questo è facile, il Corriere della Camorra, perché andava in Argentina una continuazione e faceva il Corriere, perché queste cose a Napoli si sanno. Si è venduto uno scudetto con la Camorra, che lui era il tramite per cui si è venduto lo scudetto. Però io dico... No, non lo so, ma chi è che si è venduto lo scudetto? Scusa, spiegami. Maradona con altri giocatori. Ma questo lo dici tu, ma questo non è stato provato da nessuna parte. Ma non è stato provato da nessuno, ma sì, lo dici tu, e chi sei tu? È arrivato Marco da Caserta. Il segreto di Pulcinella. Ma sì, il segreto di Pulcinella. Lo so. Quale sarebbe lo scudetto che si è venduto? Quello col Milan? Quello col Milan. 1987-88. Sì, quello col Milan, quello col Milan, cui perso in casa col Milan. Il segreto di Pulcinella. Ma quello è il segreto di Pulcinella, per te io quelle cose dietrologiche non ci credo. Vabbè, ciao Marco. Ciao Marco, ciao, ciao, ciao, ciao. Zanzara Silvano, vai. Tipi da Zanzara. Silvano da Bergamo, vai Silvano. Pronto, buonasera. Dimmi Silvano, dimmi. Niente, io diciamo che è da lunedì mattina alle 2 che sono in giro con il camion, sono andato in Inghilterra senza ancora andare a casa. Sì. E adesso sento questo Parenzo, quel testa di suino di Parenzo. Oh, che ha fatto adesso? Che fa pubblicità occulta a tutti i suoi amici. Pubblicità occulta per... lecca culo. Ma perché? Con lecca piedi. Ma perché, scusami? Adesso non è che si può trasformare questa serata in una specie di patibolo. Che ha fatto? Un grandissimo lecca culo. Perché? Ci viene a prendere per il culo. Ci viene a prendere per il culo. Gente che stiamo lavorando viene a rompere i coglioni, che stappa le bottiglie da 200-300 euro. No, momento. Ti stai prendendo per il culo, Parenzo, piantala di prendere per il culo la gente che lavora. No, io mi trovo un lavoro. Mi trovo ospite a casa di questo grazioso amico, il quale... Amici proletari, andate a casa di questo qua a Pescara, andate all'assalto della casa dei ricchi dove stampano bottiglie di champagne. Dovrebbe dirci dove abita, dovrebbe darci l'indirizzo di casa sua, no, che ci presentiamo lì una domenica a mezzogiorno tutti a mangiare a casa sua, vediamo cosa fa. La posso invitare molto volentieri, caro, non ho nessun problema. Invitami, però poi io non rispondo di quello che può succedere, perché ormai stai esagerando. Io sono sicuro che se ci attovagliamo con questi amici che ora mi ospitano, aggradirai anche tu il vino tedesco che stanno per aprire. Tedesco, te l'ha già detto quell'altro dove te lo devi mettere il magno. Io ho fatto una discussione con Paco, che fine ha fatto? Ha detto che andava via dall'Italia. Io spero che sia già preparate le valigie. A me non mi pare che questo Paco sia cresciuto alla fondazione Einaudi. Speriamo che se ne sia andato, perché è un po' che non si sente. Poi a proposito di Paco. Sì, ancora questo Paco. C'ha la spada di fuoco, Paco. Sì, dice che c'ha la spada di fuoco, che ti devo dire? Dice, poi gli si sviluppa, invece che svilupparsi il cervello, quello lì si sviluppa qualcos'altro. Tu dici in generale ai neri, dici? Chiama la tua amica sindacalista di trovarti un lavoro nel sindacato, così almeno ti metti anche tu a rubare soldi con loro. A puttane ci vai con 50 euro? No, so che ci si va anche per molto meno, ma io sicuramente non li spendo per una bottiglia di vino. Lui, quell'eccaculo lì, che ha fatto? Quell'eccaculo lì che è a fianco, quel pigmeo, che ha fatto? Lui fa la pubblicità, intanto mangia e beve alla faccia nostra. Tipi da zanzara. Allora, Silvano invocava il ritorno di Paco, è puntuale. Paco è arrivato. Allora, Crusani, ho sentito l'altro giorno il tuo compagno di partito, il PDRB, il partito dei razzisti bastardi, chiedere che si sono ancora qua. Già, sono ancora qua. Ma il tuo compagno di partito, col Silvano a Bergamo, col cretino là, deve sapere una cosa: io la casa l'ho comprato in Italia. Se mi vuole vedere andare via dall'Italia, mi deve ricomprare la casa. Io sono disposto. Sono disposto a rivendere la casa, andarmene fuori coglioni e regalarli. Io ho cominciato a lavorare in Italia il 27 febbraio del 1995, ok? Sono 22 anni passa. Se lui, io gli regalo tutti quegli anni, i contributi che ho pagato, lo posso lasciare qua, come che hanno fatto tanti immigrati, hanno lasciato qua i contributi, sono andati via, io glielo posso lasciare, però la casa no, cazzo, la casa no. Se vuole ricomprare la casa mia, mi può anche accompagnare all'aeroporto, siamo in quattro. Io, mia moglie e due figli, andiamo via subito se mi ricompra la casa, però deve venire a ricomprarmi la casa, me ne vado e gli regalo 22 anni di contributi versati. Cazzo, e io sono ancora qua. Già, io sono ancora qua. Già, bastardo che siete. E con Paco, il grande ritorno, forse domani. Questa è un'anticipazione del signor Paco da Belluno, detto Spada di Fuoco. A demain, a domani, ciao ragazzi, ciao. E io sono ancora qua. Già, io sono ancora qua. Già, bastardo che siete. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, con l'uniforme a casa. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Mi fa sta male, sento dalla voce che sta male.